bordo campo di Dario Ricci. Diario Mondiale. Coloriamo d'azzurro il cielo di Rio. Beh, è quello che ovviamente da italiani, da tifosi della nazionale di Cesare Prandelli, ci auguriamo di fare dopo la finalissima del Maracanà per quanto riguarda questi mondiali. Ma c'è un'Italia che sta pensando di colorare d'azzurro il cielo di un'altra Rio, non tanto e non solo quella del Maracanà, ma quella delle Olimpiadi 2016. Eh sì, perché c'è un'Italia che già sta lavorando per quell'importante appuntamento che è di fatto l'altro circoletto rosso sul calendario dello sport mondiale brasiliano dopo i mondiali di calcio. Allora, proprio di questo progetto, coloriamo d'azzurro il cielo di Rio, parliamo oggi qui a bordo campo con due ospiti d'eccezione: il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Alfio Giomi. Benvenuto presidente. Buongiorno a voi, grazie per l'opportunità. E poi un campionissimo del nostro sport che col Brasile ha parecchio a che fare, ricorderemo poi anche perché, e che ora è il direttore tecnico giovanile della Feder Atletica, Stefano Baldini. Ben trovato Stefano. Grazie, bentrovati tutti voi. Allora, perché abbiamo convocato qui a bordo campo due dei volti e delle voci più note della nostra atletica leggera dal punto di vista federale e sportivo? Perché proprio la FIDAL sta già lavorando in ottica Rio 2016 con un progetto che ha proprio questo nome: coloriamo d'azzurro il cielo di Rio. Presidente Giomi, direi che lei è stato proprio il motore primo di questo progetto, scandendone le tappe. Perché? Perché bisogna lavorare con largo anticipo per un'Olimpiade che, come questo mondiale, ha delle peculiarità davvero particolari, no? Sì, ma non ci sono dubbi, già 4 anni sono pochi per preparare un'Olimpiade, perché nella realtà è il tempo minimo che va fra un'Olimpiade e un'altra, ma chi ha la responsabilità di programmare un'Olimpiade deve pensare a quella successiva, ma anche, per così dire, a quelle dopo, perché poi le generazioni di atleti si susseguono, ma ogni occasione va colta per quello che è. Allora, già all'inizio del mio mandato, io sono stato eletto a dicembre del 2012, dissi subito che non si poteva perdere tempo e bisognava cercare di essere per quanto possibile anticipatori di quelle che erano tutte le problematiche di Rio. E quindi già a partire dall'estate 2013, grazie anche a un direttore tecnico come Stefano Baldini, che è veramente persona molto pratica e oltre competenza e entusiasmo ha saputo cogliere immediatamente questa occasione, ci siamo mossi con un gruppetto di ragazzi per andare a fare le prime esperienze. Questo perché? Perché non c'è dubbio che per un'Olimpiade bisogna guardare anche piccoli particolari, quindi capire per tempo come ambientarsi, quali sono le condizioni migliori, quale può essere il modo migliore per approcciarsi alla gara e così via, era indispensabile. 4 anni sono proprio il minimo indispensabile. Eh sì, insomma, il quadriennio vola. Stefano, quindi tu già hai svolto con alcuni giovani atleti, diciamo anche giovani promesse dell'atletica leggera italiana, un primo stage lo scorso anno e altri due ce ne saranno sia quest'anno sia il prossimo, proprio in ottica Rio 2016. Le prime impressioni, perché so che voi comunque in particolare la spedizione azzurra a Rio 2016 farà base prima a San Paolo per poi trasferirsi a Rio nell'imminenza delle gare, no? Sì, proprio così, all'Università di San Paolo sarà la nostra base pre-olimpica e noi siamo già stati nel 2013, diciamo, nel periodo di acclimatamento prima del villaggio olimpico, quindi il pre-villaggio lo abbiamo fatto appunto a San Paolo, siamo stati 12 giorni e abbiamo svolto dei test di valutazione di efficienza sia neuromuscolari che metabolici in Italia prima di partire, per poi ripeterli una volta in Brasile dopo 3 giorni, 6 giorni, 9 giorni. Abbiamo anche fatto fare una gara ad alcuni ragazzi e quest'anno riusciremo a fare un programma molto più capillare, nel senso che faremo 7 giorni a San Paolo e poi andremo a Rio de Janeiro e simuleremo proprio tutto quello che è il periodo di preparazione alle gare. Stefano, mi viene da farti una battuta, però Prandelli porta gli azzurri a Mangaratiba, a 100 km da Rio, il CONI addirittura a San Paolo, ma che cos'è che mette paura di Rio de Janeiro? Il traffico, le tentazioni, le spiagge? No, diciamo che la cosa principale è che naturalmente un mondiale di calcio è un qualcosa di molto elitario. Un'Olimpiade invece vede la partecipazione di migliaia di atleti e quindi difficilmente tutti hanno la possibilità di stare a Rio de Janeiro e di allenarsi nei 10 giorni che precedono le gare in una situazione molto confortevole. Ecco perché abbiamo cercato una soluzione alternativa e il CONI si è guardato intorno per tempo e noi stiamo simulando quello che potrebbe essere il percorso olimpico in modo da arrivare al 2016 senza sorprese. Anche perché, presidente Giomi, San Paolo è un po' la capitale italiana del Brasile, giusto? Sì, ma infatti noi coloriamo d'azzurro il cielo di Rio, aveva 2 macro obiettivi, uno quello di cercare di fare tutte le esperienze possibili per arrivare preparati a Rio, l'altra è quella di creare l'ambiente migliore per l'Italia. San Paolo è una città molto italiana, chiaramente, in cui abbiamo già visto ci troviamo benissimo, per cui il tentativo è anche quello di creare l'ambiente giusto, di far sì che dopo il Brasile fosse l'Italia la nazione di casa. E quindi l'ottica è stata quella appunto di andare in una città dove potevamo allenarci con tranquillità e serenità per poi spostarci in tempi brevi sul Rio, però un'operazione che già abbiamo fatto quando siamo in altri continenti, quando siamo stati a Sydney nel 2000, proprio il CONI organizza a Brisbane il campo preolimpico, nel 96 Atlanta, Winston-Salem, cioè c'è una tradizione in questo senso perché la città olimpica di per sé rende difficile un periodo molto lungo. Stefano Baldini, dicevamo dei tuoi particolari intrecci col Brasile, per chi non lo ricordasse, nella tua carriera c'è quello splendido oro olimpico ad Atene 2004 e il Brasile c'entra non poco, no? Perché ci fu quella clamorosa e splendida rimonta sul brasiliano Lima, che però addirittura dell'arrivo venne ostacolato da quel personaggio folcloristico vestito da scozzese che in qualche modo ne rallentò l'azione, insomma fu quasi un incidente diplomatico, no? Quindi credo... In realtà più che addirittura d'arrivo mancavano ancora 7 chilometri, quindi la strada era ancora molto lunga, soprattutto per il mio avversario che cominciava ad avere un po' di difficoltà. Era un po' declinante. Però devo dire che sì, lui è sicuramente la medaglia di bronzo olimpica più famosa in assoluto, nel senso che in Brasile ancora oggi è davvero un personaggio. Tra l'altro ci incontriamo ancora sui campi di gara perché io faccio il direttore tecnico giovanile, lui collabora con la Federazione Brasiliana i progetti legati alle categorie juniores e allievi, quindi di under 18, e quindi ci incontriamo ancora sui campi di gara abitualmente. Di solito non frequentate scozzesi in comune nelle vostre chiacchierate, no? Immagino. Ma guarda, dopo passa il tempo chiaramente, quindi insomma tutto quanto così si raffredda, però devo dire che a caldo effettivamente i brasiliani erano molto molto così irritati. Sì, c'era il rischio di carte bollate per quella medaglia. Stefano, guardiamo un attimo anche al calcio. Cosa ci può essere, qualche suggerimento utile per i nostri atleti che affronteranno un mondiale anche dal punto di vista fisico difficilissimo? Quali possono essere i punti di contatto e con l'esperienza che state facendo voi in vista delle Olimpiadi? Ma guarda, noi abbiamo visto lo scorso anno che dopo i primi 3-4 giorni in realtà i ragazzi, l'anno scorso abbiamo partecipato con degli juniores, quindi degli under 20, quest'anno andremo con degli under 23, quindi ragazzi già un po' più maturi, e dopo 3-4 giorni tutti erano già abbastanza competitivi per poter fare delle gare anche di alto livello, e il clima è fantastico in quel periodo, quindi insomma si riesce a recuperare anche abbastanza bene. Poi è chiaro che le televisioni e i media fanno un po' il bello e il cattivo tempo, nel senso che i ritmi delle partite, quindi anche il recupero post evento, viene un po' scandito dalle esigenze televisive, però diciamo che ci sono tutte le possibilità di ottenere delle ottime prestazioni dal punto di vista tecnico, tattico e fisico. Diciamo che almeno voi a Rio 2016 i tuoi atleti sarete, quantomeno vi eviterete questi strapazzi aerei quasi intercontinentali tra nord e sud del Brasile. Presidente Giomi, ma ce la fanno questi brasiliani a tenerle queste Olimpiadi? Perché le notizie che arrivano dal CIO, dalle varie realtà che cooperano alla realizzazione di questi giochi sono piuttosto allarmanti. Ecco la situazione che avete verificato sul campo e che state verificando un po' sul campo. Non ricordo un'Olimpiade in cui non si sia detto 2 o 3 anni prima che potrebbe non essere fatta per vari motivi, perché si è in ritardo. Ricordo Atene, sembrava veramente di non poterla fare da un momento all'altro. Io sono stato Atlanta, un'Olimpia sotto aspetti semplici, ma ci siamo trovati con pullman che si fermavano in mezzo allo stadio, ci voleva 2 ore per arrivare in un luogo in cui era previsto arrivare in 20 minuti. Cioè, le Olimpiadi sono veramente l'evento più grande che esista sulla Terra. E quindi è chiaro che sono una manifestazione assolutamente complessa, ma proprio perché lo sono, alla fine un grande paese come il Brasile troverà le risorse, sia umane che finanziarie, per chiudere i lavori. Cioè, un'Olimpiade poi alla fine si fa, e si fa bene, è troppo importante per tutti, quindi è giusto gettare attenzione, fare in modo che... Ma io non credo veramente che nessuno si possa permettere poi di non arrivare preparato a un'Olimpiade. E allora coloriamo d'azzurro il cielo di Rio 2016, ma prima intanto godiamoci questo mondiale e magari dai proviamo anche a vincerlo. Allora intanto un in bocca al lupo agli azzurri del 2016 e a quelli di quest'anno del calcio, e un grazie ad Alfio Giomi, presidente della Federatletica Italiana. Grazie a voi. E a Stefano Baldini, oro olimpico ad Atene 2004, ora direttore tecnico delle giovanili della Federatletica. Grazie Stefano. Grazie mille, a presto. Ancora insieme con A Bordo Campo, Diario Mondiale, torniamo in quella Manaus in cui l'Italia ha conquistato il bel successo sull'Inghilterra. Partita ormai archiviata, ma tornare in Amazzonia è l'occasione per parlare ancora una volta di una città che grazie alla sfida con gli inglesi abbiamo scoperto, e per incontrare un italiano davvero particolare che a Manaus sta costruendo un bel pezzo della propria vita. Sentite. A Bordo Campo di Dario Ricci. Per le strade di Manaus, la Manaus mondiale, la Manaus che è la capitale dell'Amazzonia, e ci troviamo proprio in quella che è la piazza principale di questa città. Di fronte a me lo straordinario Teatro dell'Opera, che è stato il Teatro Amazonas, il teatro in cui hanno cantato Pavarotti, Caruso, i più grandi cantanti lirici della storia, che è stata anche l'ambientazione di quel film visionario e straordinario che è Fitzcarraldo. Insomma, Manaus sulla cartina del mondo c'era ben prima di questi mondiali, ma inevitabilmente questi mondiali per tanti aspetti l'hanno portata al centro dell'attenzione. Ne parliamo oggi di questo intreccio tra il pallone e l'Amazzonia con un ospite davvero particolare, perché tanti sono gli italiani che sono passati per Manaus, per la sfida con l'Inghilterra, ben pochi quelli che ci vivono da 2 anni, come il nostro ospite Marco Volpato, trentenne che da Vicenza è qui a Manaus e a Bordo Campo oggi ospite qui su Radio 24. Perché Marco, che spiegaci subito, che ci sei venuto a fare da Vicenza qui, che cosa fai a Manaus da 2 anni? Manaus è una città molto particolare, è differente da tutte le altre, penso si percepisce la presenza, l'anima della foresta attorno. Sono milioni di ettari di foresta attorno a noi e è davvero una città particolare, non ci sono accessi via strada, quindi si può arrivarsi per automobile solo di barca o di aereo, e quindi diciamo ci si sente un po' isolati, ma è una città che ha il suo fascino. Il suo fascino e i suoi problemi, ma se ci sono rimasto da 2 anni c'è un motivo. Quale? So che sei impegnato in lavori con l'Università Federale dell'Amazzonia, vero? Sì, sto facendo un master qui in scienze ambientali e sto sviluppando il mio progetto che ha a che fare con il tema della caccia, quindi farò interviste con cacciatori sul tema della sostenibilità ambientale. E sarò qui perlomeno fino a marzo del 2015, ma conto di rimanerci di più perché mi sto trovando bene, ho già creato diciamo un clima familiare, è come una seconda casa già. C'è il fascino della foresta. Io venendo qui con l'aereo, quando ho visto questo Rio dell'Amazzonia che quasi ci abbracciava, effettivamente ti senti un tutt'uno con la foresta e senti questa voce che un po' ti chiama, no? Stiamo cercando di mantenerlo il più possibile contro varie pressioni esterne, vari interessi che vorrebbero ridurla sempre più e progressivamente, ridurre questi spazi di foresta, spazi di diciamo di foresta incontaminata perlomeno per le attività industriali dell'uomo. E quindi sì, grande parte della magia di questo luogo lo dobbiamo alle bellezze naturali, a quello che è ancora preservato come in termini di biodiversità, che non si trova in nessun'altra parte del mondo. E quindi sì, spero di cercare di valorizzare questa particolarità di Manaus, questa città che nemmeno i propri brasiliani conoscono bene. Spero che con tutte le cose negative che si possono dire del mondiale, perlomeno crei che possa dare una visibilità maggiore a questa città e che richiami l'attenzione per le cose belle e anche per le cose brutte di questo posto. Ecco, ammettiamo, tu non sei un grande sostenitore di questo mondiale qui a Manaus. Perché? Perché forse qui più che altrove sono ancora più evidenti alcune contraddizioni tra i grandi investimenti fatti per lo stadio nuovo, per preparare questa festa, e i problemi di tutti i giorni, no? Di una città che, ecco, proviamo a snocciolarne qualcuno. Insomma, la quotidianità qui a Manaus non è proprio banale. È molto, come si dice, gritante la differenza tra le esigenze del popolo, della classe bassa, e l'infrastruttura che è stata creata per questo mondiale esclusivamente per poche partite. Quindi diciamo il beneficio che riceverà la comunità, la popolazione da questo mondiale sarà praticamente nullo, diciamo, se non in termini di visibilità perlomeno. E quindi i problemi della città sono parecchi: mancano le infrastrutture, l'acqua potabile, nonostante siamo ai margini del fiume più grande del mondo, qui non c'è acqua potabile, bisogna comprarla, e quindi è molto inquinato. Dentro la città c'è un livello di inquinamento molto, molto alto. Gli incidenti, il traffico crea incidenti, crea morti tutti i giorni, e non se ne parla perché sono altre le cose che desviano l'attenzione da questi problemi principali. Un'altra cosa che ci tengo ad aggiungere: a me piace andare a girare in bicicletta, muovermi in bicicletta, è un mezzo sano di vivere, è sostenibile, diciamo. Però è molto rischioso, e diciamo vorrei una città più vivibile. Queste sono le esigenze principali, secondo me. Eh beh sì, richieste che arrivano dai margini dell'Amazzonia, ma che ben si attagliano anche a molte delle nostre metropoli, Marco. Bisogna però dire che in effetti, se un lato positivo c'è di questa kermesse mondiale, è quello di aver messo Manaus anche sulla mappa, mi spiegavi, di molti brasiliani, nel senso che nei confronti di questa, come di altre regioni, da parte del sud ci sono quegli stessi stereotipi che ci sono tra noi, tra sud e nord, però in qualche modo rovesciati, no? Perché il sud del Brasile è la parte più ricca, sia economicamente che per quanto riguarda anche il peso politico. Quindi voi di Manaus siete un po' considerati solamente come indios, diciamo, del resto dei brasiliani. Il resto del Brasile ha ancora questa visione che Manaus, l'Amazzonia, sia un posto sottosviluppato, dove c'è un complesso di inferiorità della propria Amazzonia, del proprio popolo amazzonense nei confronti del resto del Brasile, e del Brasile nei confronti del resto del mondo. Quindi diciamo, ma io come europeo, che dovrei essere diciamo in cima alla scala gerarchica, non mi sento così. Io ho trovato un popolo straordinario, allegro, mi sta insegnando molto, sto crescendo molto anche come persona. Quindi diciamo questo complesso di inferiorità non dovrebbero averlo, dovrebbero essere molto più orgogliosi della cultura che hanno e valorizzarla, essere orgogliosi, ostentarla proprio. Direi che poi, tra l'altro, è un percorso che passa anche attraverso i progetti dell'Università Federale di Amazzonia, che, mi dicevi, è particolarmente organizzata e propositiva proprio rispetto al tema ambientale e socioambientale, no? Mm-hmm. Sì, l'università si occupa di ricerca, insegnamento, ma la chiamano extension, cioè sarebbe l'estensione, applicare questi progetti al di fuori, nelle comunità, nelle zone più remote dell'Amazzonia, per cercare di fare programmi di gestione della fauna o dell'agricoltura più sostenibile. Quindi diciamo l'università è un nucleo pensante che cerca di agire il più possibile su un territorio che è molto vasto, che quindi è difficile gestione, ma perlomeno l'intenzione è propositiva in questo senso. Guardando da qui da questo punto di osservazione così particolare al mondiale, provando a immaginare che tipo di eredità potrà lasciare a questo paese, qual è la tua opinione da parte appunto di una persona che vive in un posto così particolare e che conosce il Brasile comunque con una buona profondità, insomma? Questa è una domanda difficile. Cosa può lasciare il mondiale per un paese con tutti i problemi che ha il Brasile, con il grande divario sociale che c'è nel Brasile? No, non lo so, non penso che possa mudare, che possa trasformare le strutture sostanziali della società. I problemi rimarranno. Il mondiale mette in evidenza qualcosa che si sapeva già, solo che è evidente in questi eventi, che è un paese ancora fortemente militarizzato, quindi i conflitti sociali si risolvono tra virgolette con la forza, quindi non si risolvono. Manca una critica strutturale che vada a diminuire questa differenza tra i pochi che hanno molto e tra i molti che hanno poco. E quindi diciamo, spero che sia più evidente i problemi che questo paese ha, si tornino più evidenti, semplicemente questo. Penso che sia l'unica cosa positiva che per la maggior parte dei brasiliani possa avere il mondiale del calcio. E allora Marco Volpato, speriamo che almeno questi aspetti positivi possano emergere e portare altri positivi risultati. Intanto in bocca al lupo per la tua permanenza a Manaus e per il tuo percorso universitario qui ai confini dell'Amazzonia. Grazie a voi, vi ringrazio e sono felice che sia arrivata una voce dall'Italia a farmi compagnia in questa Amazzonia. Per A Bordo Campo, Diario Mondiale, è tutto. Un grazie a tutti i tecnici che tra Milano e il Brasile hanno reso possibile anche questa puntata. Vi ricordo che potete scriverci alla mail a bordocampo@radio24.it e riascoltarci sul nostro sito radio24.it, da cui potete scaricare anche il podcast della puntata. L'appuntamento con A Bordo Campo Diario Mondiale come ogni domenica alle 16:30 e in replica ogni sabato mattina alle 6:15. Un saluto dal Brasile da Dario Ricci.